parte è il nord? Che corrente è questa? Giuseppe era piuttosto disorientato. I fondali multicolori del mare di Sardegna, sempre diversi e sorprendenti, lo avevano distratto con la loro continua composizione di geometrie e colori. Così si era allontanato dal branco. Ma non era impaurito, forse solo un po' preoccupato per l'inevitabile ramanzina della mamma. Era un delfino di 3 anni, Giuseppe, con un bel corpo liscio e snello, 2 grandi occhi azzurri che non si stancavano mai di curiosare e un naso lungo e all'insù. Probabilmente dovrò chiedere a qualcuno, si disse. Magari a un pescatore o a un marinaio. Giuseppe bruciava dalla voglia di parlare con un umano, ma non c'era mai riuscito. Si sentivano storie terribili sul conto degli umani, roba da far drizzare la pinna caudale a un sarago. Sua madre, inoltre, gli aveva detto di diffidare degli umani, esseri che per nuotare indossano buffi e grossi occhiali, forse per non farsi riconoscere, e con chiglie lisce e lunghe sulla schiena, per imitare i paguri. Insomma, non c'era da fidarsi. «C'è nessuno che mi sappia dire dove mi trovo?» provò a gridare il giovane delfino. «Perbacco, piccolo, sei nella zona sud della Costa Rei. Dove credevi di essere?» Una voce terribilmente cavernosa gli aveva risposto da chissà dove. «Chi sei?» disse Giuseppe, facendosi piccolo piccolo e sentendo le pinne addominali diventare letteralmente molli e gelatinose. «Sono io, ragazzo. Guarda da questa parte.» Gli occhioni di Giuseppe si fecero più grandi che mai, ma non vedeva nulla tranne la massa argentata di un enorme scoglio. «Sei un umano?» chiese il piccolo, mentre scivolava col ventre a pochi centimetri dal grande scoglio levigato, tremando come un delfinetto di 3 mesi. «Chi sei? Non ti vedo!» «Ma quale umano? Sono io!» ripeté il vocione ancora più forte e con un non so che di orgoglio nella voce. «Io, lo scoglio!» «Lo scoglio? Ma puoi parlare?» «Se intendi parlare con te, certo che posso. Sono uno dei pochi scogli a poterlo fare. Gli altri non conoscono il delfinese. Ma io, non per vantarmi, ho studiato le lingue molti anni fa. E poi, un tempo ero come te.» «Eri un pesce?» chiese Giuseppe facendosi coraggio. «E tu sei un pesce?» gli rispose il vocione burbero. «No, io sono un delfino. Sono un mammifero. Appartengo all'ordine dei cetacei odontoceti e sono dotato di pinna dorsale falcata.» «Sì, sì, ho capito, hai studiato», disse la voce quasi infastidita. «Si vede che sai la lezione. E in ogni caso la risposta alla tua domanda è sì, ero un delfino. E adesso mettiti più a destra con la coda, così che potrai vedermi in faccia.» Giuseppe, pur tremando ancora di paura, fece come la voce gli diceva. «Ecco», disse ancora la voce. «Adesso voltati e mi vedrai bene.» Giuseppe dette ancora 2 colpetti con la dorsale e si girò. Quello che vide fu il grosso faccione levigato dello scoglio. Una lunga spaccatura nella roccia tracciava un simpatico sorriso e uno spuntone di calcare pareva strizzare l'occhio. «Mi vedi adesso? Come ti chiami?» disse la voce. «Sì! Vedo! E mi chiamo Giuseppe, ma tutti mi chiamano Peppino», disse il delfino, rincuorato dal volto simpatico del grande scoglio. «Come hai fatto a diventare uno scoglio?» «È una lunga storia, ma se vuoi te la racconto. Hai qualche minuto di tempo?» «Beh, tanto devo aspettare il branco», disse Giuseppe, curioso come al solito. «Bene, devi sapere», disse il roccione con tono soddisfatto, «che moltissimi anni fa io ero un delfino, anzi, uno dei delfini più veloci di tutto il Mediterraneo.» «Di tutto il Mediterraneo?» fece Giuseppe, pensando al suo record di velocità nel branco. «Certo. Vedi, a quei tempi gli umani non erano così bravi come oggi a costruire le navi. E più di una volta mi ero trovato in presenza di imbarcazioni che stavano affondando. Quei poveretti, una volta in mare, non sapevano galleggiare a lungo. Allora mi offrii di aiutare alcune di loro.» «Davvero?» chiese Giuseppe, sgranando gli occhi. «Davvero hai toccato un essere umano?» E non solo, ne ho salvati a decine, sostenendoli a lungo finché i soccorsi non arrivavano. Lanciai una vera moda. Da allora tutti i delfini del mondo aiutano gli uomini che finiscono in mare. Quelli che gli uomini chiamano naufraghi. E quando è che sei diventato uno scoglio? Beh, quando fui vecchio e vicino alla fine, il re del mare mi volle fare un dono per compensare le mie buone azioni. Mi permise di continuare a vivere per sempre in un posto bellissimo, ma sotto forma di scoglio. E così sei finito qua, in Costa Rei. E c'è una spiegazione anche per questo, piccolo delfino curioso. Dato che avevo salvato tanti esseri umani, il re del mare mi concesse di vivere in un posto dove sono gli uomini a salvare la vita degli altri esseri viventi. Un posto dove la natura è protetta e l'ambiente è rispettato. La voce della mamma improvvisamente risuonò nella corrente. Questa è mia madre! Ora devo andare. Grazie per la bellissima storia. Ciao, piccolo. E non dimenticare, non sempre quelli che appaiono diversi sono peggiori di noi. Dobbiamo solo cercare di capirli. Ci vediamo, grande scoglio. Posso venire a trovarti ancora? Chiese Giuseppe. Beh, io sono sempre qui, Punta Santa Giusta, estremo sud di Costa Rei. Ciao, piccolo. Pochi colpi di coda e Giuseppe fu in vista del corpo sinuoso e rassicurante della mamma.